e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, questa mattina Cuore Denari è solo di Deborah Rosciani, solo perché sono da sola alla conduzione. Volevo segnalare ai tecnici che il microfono non tiene, quindi magari se dopo veniamo a fare anche un controllino, beh, qualche intoppo tecnico ci sta ogni tanto naturalmente, anche le nostre macchine si stancano, si innervosiscono. E allora, di cosa parleremo questa mattina in questa lunga trasmissione insieme? Abbiamo davvero una puntata molto ricca, i temi di cronaca non ci mancano. Allora parleremo intanto di mercati finanziari, il nervosismo in vista delle elezioni francesi e ora anche le britanniche, annunciate a sorpresa ieri da Theresa May. Abbiamo questa mattina un quadro di generale recupero fra le borse europee, Milano segna un rialzo di un punto percentuale, faremo un focus su questo clima di attesa rispetto appunto ai prossimi appuntamenti politici. Poi scatta da oggi l'obbligo di inserire nelle etichette di tutte le confezioni dei prodotti lattiero-caseari l'origine della materia prima. Cosa significa per consumatori e produttori? Anche questo sarà un piccolo focus della prima parte del nostro programma. Ci occuperemo del tema più delicato del giorno, quello che campeggia oggi su tutte le prime pagine dei giornali, tema vaccini. Non entreremo nel merito delle polemiche scatenate dal servizio di Report, diciamo che le polemiche sono già sufficienti quelle sui giornali. Insieme al nostro esperto, il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University, cercheremo di capire perché il vaccino antipapillomavirus, che è quello di cui si parla di più, un vaccino utilizzato per prevenire un'infezione che può causare il tumore dell'utero, è finito sotto i riflettori, quindi faremo un focus sul tema della comunicazione su questi argomenti. Parleremo poi di capelli, anche loro soffrono i cambi di stagione, vi daremo qualche suggerimento utile per coccolarli ed evitare stress alle nostre chiome. Infine, nell'ultima parte del programma, un altro tema di denari, parleremo di dichiarazione dei redditi, perché è ufficialmente partita la stagione 2016-2017, un debutto molto consistente per la precompilata, possibile da ieri scaricare appunto i nostri dati dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Ieri ci sono stati già oltre 200.000 accessi, possibili appunto, come vi dicevo, da ieri. Per tutti questi argomenti sceglietene uno a vostro piacere, potete intervenire in diretta, siete con me all'800 24 00 24 con tutti i nostri ospiti. Qual è l'argomento che stamattina vi incuriosisce di più? Chiamateci oppure scriveteci al 349 238 6666. Partiamo subito con il primo tema di oggi. Allora, continuiamo ad osservare i mercati finanziari in una settimana in cui la questione politica è tornata ad essere il tema principale a condizionare l'andamento di borsa ma anche delle obbligazioni. Dopo il referendum turco, nel prossimo weekend si svolgono le presidenziali in Francia, primo turno, si guarda con grande attenzione ad ogni mossa di tutti i candidati, anche per provare a prevedere ogni risultato possibile dopo l'effetto sorpresa suscitato lo scorso anno dagli inattesi risultati di Brexit e dell'elezione appunto di Donald Trump. Peraltro, a proposito di Brexit, prima di addentrarci nella dinamica della borsa francese, che sarà il nostro piccolo focus di stamattina, come sapete appunto ieri è arrivato anche un altro annuncio a sorpresa che pure ha contribuito ad innervosire non poco i mercati. La Gran Bretagna andrà alle elezioni anticipate l'8 giugno, lo ha annunciato Theresa May, il Premier, decisione presa, ha detto, per garantire certezza e stabilità negli anni a venire. Le elezioni legislative in Gran Bretagna peraltro erano in calendario solo nel 2020, quindi addirittura anticipate di ben 3 anni. L'obiettivo è chiaro, avere quanto più possibile consenso politico dalla sua parte appunto per portare avanti velocemente Brexit. In tutto questo appunto naturalmente a noi interessa fare un po' una valutazione sulle attese di mercato, perché la nostra raccomandazione, quella che ci piace di più darvi, è sempre la stessa: non trascuriamo i fatti, anche quelli che ci interessano poco, perché poi improvvisamente scopriamo appunto che movimentano i mercati, le azioni, le obbligazioni e le valute, ce le ritroviamo nel nostro piccolo investimento, nel nostro risparmio, e così qualche volta ci colgono un po' questi fatti di sorpresa. Per cui oggi facciamo qualche commento su quello che potrà accadere prossimamente, anche se ribadiamo Un altro tema molto gettonato ultimamente, fare previsioni, è un esercizio nel quale ormai si cimentano sempre meno persone. Chiaramente le case di investimento valutano tutti gli scenari possibili, ma con molta meno enfasi appunto fanno delle previsioni delle quali poi si dicono certi, perché in realtà poi l'effetto sorpresa è sempre dietro l'angolo. Allora, intanto ringrazio e saluto per essere con noi questa mattina Luca Tobagi, Investment Director di Invesco per l'Italia. Buongiorno Tobagi e benvenuto, grazie. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, intanto andrei subito a vedere cosa succede stamattina. Dicevamo, un quadro di generale rialzo dopo i cali di ieri. Non coinvolge questo rialzo Londra, che è ancora in ribasso dello 0,20%, già ieri ha perso più di 2 punti. Parigi e Francoforte guadagnano appena lo 0,2%, un po' più consistente invece il rialzo di Milano, che va per conto suo. Oggi significativi progressi di tutte le banche. Milano guadagna oltre 1 punto, più 1,12%, più 4 per Unicredit, più 3,5 per Banco BPM, più 3,3 per UbiBanca. Fiat Chrysler, dopo i dati sulle matricolazioni europee, in rialzo di oltre 3 punti, bene intesa, BPR, Ferrari, eccetera. E insomma abbiamo qua una Milano che è molto più brillante rispetto alle altre piazze europee. Farei invece un piccolo focus con lei sulla Francia, Tobagi. Andiamo a vedere che attesa c'è sulla borsa francese, che in realtà non se la passa male e non sembra temere nessuno dei risultati politici possibili. Ieri la seduta è stata negativa, ma nell'ultimo anno il bilancio è positivo perché l'indice principale guadagna circa il 12% ed è sui massimi dall'estate del 2015. Più nervoso è il mercato obbligazionario, perché nelle passate settimane abbiamo già raccontato del fatto che l'OAT, il decennale francese, aveva segnato un rendimento superiore all'1% e aveva visto appunto una forte divaricazione dello spread fra appunto il decennale francese e il paritetico tedesco. Qual è il suo punto di vista rispetto allo stato di salute e allo stato di attesa, anzi, della borsa francese e della piazza francese rispetto alle presidenziali del weekend? Beh, per quanto riguarda la borsa, diciamo che quello che la borsa francese ha dimostrato è molto allineato con quello che anche altre borse hanno dimostrato, cioè che la politica è un elemento, non necessariamente il più importante, dello scenario complessivo. Un quadro ciclico favorevole in cui c'è stata una ripresa economica globale, confermata anche ieri in buono stato dal Fondo Monetario Internazionale, e una dinamica dei prezzi in ripresa, è stato uno scenario favorevole per i mercati azionari, per esempio, e quindi la Francia ha beneficiato, come altri paesi, come altri indici azionari, di questa condizione a supporto. Inoltre, un aspetto significativo della borsa francese è che è abbastanza esposta, anzi direi particolarmente esposta rispetto ad altri indici azionari di paesi avanzati, al tema delle infrastrutture, per la notevole presenza di titoli dei settori. Noi abbiamo un po' un pregiudizio quando parliamo della borsa francese, pensiamo solo al lusso, alle auto, ai servizi finanziari, alle banche. Effettivamente questo è un settore al quale pensiamo molto meno, invece è molto esposto il listino francese su questo comparto. Tobagi. È vero, è esattamente questo. Rimane vero anche tutto il resto, cioè ci sono anche gli altri settori, però è chiaro che un anno come il 2017, in cui c'era una forte aspettativa che si è costruita anche nel corso dello scorso anno, che la politica fiscale sarebbe diventata un elemento importante del quadro economico complessivo, che ci sarebbero stati investimenti in infrastrutture, spesa pubblica per costruzioni, adeguamenti, migliorie delle infrastrutture esistenti, è chiaro che molti investitori abbiano guardato al listino francese come un approdo per potenzialmente sfruttare e cavalcare questi trend nel caso in cui si verificassero. Quindi molta cautela, attenzione a determinati settori rispetto ad altri che vanno un po' più di moda, ma in realtà non rappresentano la totalità appunto chiaramente della rappresentazione dell'economia francese nel listino. Mi pare di capire dunque, Tobagi, che il mercato sembra pronto ad ogni possibile soluzione politica francese. Ovviamente non fa il tifo per oppure un po' di tifo lo fa la borsa? Diciamo che le borse hanno probabilmente, o più che le borse, gli investitori hanno un po' imparato la lezione del 2016, cioè che anche scenari che sulla carta fino a poco tempo prima dell'evento vengono ritenuti molto improbabili, possono diventare poi quelli che si verificano nella realtà. E quindi molti scenari un po' più di coda, un po' più estremi, assumono una rilevanza maggiore nelle aspettative degli investitori. Questo è sicuramente un fatto. Tra l'altro, per quanto riguarda il primo turno elettorale che si terrà domenica per le presidenziali in Francia, noi abbiamo 4 candidati, di cui almeno 3 sono molto molto vicini nei sondaggi. Quindi è tutto possibile. È tutto possibile. Se per il secondo turno forse è vero che per il momento i mercati tendono a assumere un esito favorevole a Macron, se dovesse arrivare al secondo turno contro quasi tutti gli altri candidati possibili, è vero che in realtà per il primo turno la situazione nei sondaggi è molto più equilibrata e quindi i mercati tendono a riflettere anche questo. Assolutamente. Però riflettono anche un'altra cosa, cioè un trend che va avanti in realtà da almeno 6 o 7 anni in quasi tutti i paesi avanzati, cioè uno scollamento della dinamica dei mercati azionari in questo caso dalla dinamica politica. Questa è una cosa che è stata vera nel 2016, è stata vera negli anni precedenti e per il momento è stata vera anche nel 2017. Naturalmente, perché il mercato ha guardato soprattutto alle iniziative di sostegno della Banca Centrale Europea, che si è spesso sostituita alle iniziative politiche che sarebbero state necessarie, soprattutto in campo fiscale. Solo un minuto di tempo, Tobagi, poi la salutiamo per chiederle un commento invece rispetto all'annuncio fatto ieri da Theresa May all'impatto sul mercato. Londra ancora in difficoltà e per effetto della movimentazione indecisa della sterlina, come dobbiamo valutare appunto l'annuncio e l'impatto sulla borsa? È stato un annuncio a sorpresa e come sempre capita sono i rischi inattesi, gli eventi inattesi quelli che provocano un po' più di movimento sul mercato rispetto a quelli già ampiamente attesi, no? Quindi si parla tanto di politica in altri paesi, ma questo annuncio a sorpresa della Gran Bretagna ha spiazzato un po' tutti. Le valute sicuramente sono la prima asset class su cui facile che si riverberino. Il primo termometro, diciamo. Esattamente. Non necessariamente un termometro, ma sono la prima valvola di sfogo di qualunque tensione sui mercati, mentre gli altri mercati sono un pochettino più gestibili, sia dal punto di vista di una maggiore presenza di investitori diversificati, sia perché ad esempio nel mondo obbligazionario ci sono stati anche gli interventi della Banca Centrale a sostegno che hanno un po' anestetizzato, no, la dinamica di questi mercati. Quello che effettivamente non sorprende tanto è che in una giornata come ieri abbiamo visto gli spread muoversi. Lei citava prima lo spread sullo ATF, sul titolo di Stato francese, che è aumentato molto negli ultimi mesi, ma soprattutto negli ultimi giorni è tornato ai massimi degli ultimi 12 mesi. Lo stesso sul BTP. Cioè è chiaro che l'incertezza politica si riflette abbastanza velocemente in alcuni casi sul mercato obbligazionario governativo. Però insomma non ci dobbiamo lasciar spaventare da questi movimenti, poi abbiamo anche imparato che il mercato li digerisce, si riadegua abbastanza rapidamente, però dobbiamo, alla luce del tema politico che sarà dirompente quest'anno, abituarci a questi momenti anche di volatilità su tutte le asset class, come le chiamano le case di investimento. Grazie a Luca Tobagi, buona giornata. Grazie molte, Investment Director di Invesco in Italia. Ci fermiamo, è tardissimo, c'è il traffico e poi parliamo di latte. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, un altro piccolo approfondimento nella nostra rassegna stampa che riguarda il latte. Arriva oggi in Italia l'obbligo di inserire nelle etichette di tutte le confezioni dei prodotti lattiero-caseari l'origine della materia prima. Cosa significa questo? Da cosa arriva questo obbligo? Cosa vuol dire per consumatori e produttori? Buongiorno ad Enrico Cinotti, giornalista del Salvagente, autore del libro È facile fare la spesa se sai leggere le etichette. Enrico, ben ritrovato, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Adesso aspetta che il telefono non ci piace tanto, la qualità del collegamento telefonico, magari lo ripristiniamo con Marco, intanto vediamo se invece va meglio con Dino Scanavino, che è presidente nazionale di CIA, Agricoltori Italiani. Presidente, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Vivo, bello, bello, bello vivace, appunto nella voce qua ci piace, grazie Presidente. Allora, velocemente anche agli ascoltatori, se volete potete intervenire all'800240024. Siete consumatori di latte e derivati, cercavate di sincerarvi dell'origine della materia prima, quanto leggevate fino ad oggi le etichette dei prodotti lattiero-caseari oppure non ci avevate mai riflettuto? Adesso riproviamo a sentire Enrico Cinotti, ma intanto Presidente Scanavino, subito l'ABC con lei, ci ricorda, per chi non avesse letto con attenzione questa notizia, da dove arriva questo obbligo e cosa vuol dire per i produttori appunto di questo ottimo prodotto che in Italia insomma è molto buono, insomma un vanto e quindi abbiamo un nuovo adeguamento per i produttori in termini di norme che arrivano dall'Europa, giusto? Certo, ma soprattutto abbiamo utilizzato in Italia una possibilità che ci ha dato l'Europa in un che prevedeva tra gli alimenti da tracciare, da poter tracciare il latte. Noi abbiamo appoggiato questa pratica dall'inizio, crediamo sia importante, ecco, non va enfatizzata troppo perché altrimenti qualcuno è indotto a pensare che dopo questa etichettatura i problemi del settore agricolo che produce latte siano risolti. In realtà non è così, ma questo è un pezzo importante. Certo, ma senta Presidente, prima era indicata comunque l'origine del latte utilizzato per produrre e confezionare i prodotti lattiero-caseari italiani, ma non era un obbligo, giusto? In realtà molti già indicavano la provenienza. Sì, sì, anche sul latte fresco c'era l'indicazione del latte italiano, era un'iniziativa che era stata anche sostenuta dal Ministero e poi in tutti i prodotti DOP e IGP dove l'obbligo è preesistente, infatti questa normativa non toccherà i prodotti a denominazione d'origine protetta, indicazione geografica, perché l'obbligo preesisteva. Certo. Enrico Cinotti, allora ci adeguiamo ad un regolamento europeo, lo scrive oggi il Sole 24 Ore, 1169 del 2011. Ci spieghi appunto, per te che sei un esperto di etichette, visto che ci hai scritto sopra un libro, che cosa vuol dire questa novità per il consumatore? Sì, diciamo che abbiamo una informazione in più che ci consente per il latte a lunga conservazione o per il latte utilizzato come ingrediente nei formaggi, nel yogurt, nel burro, di avere, come dire, a disposizione questa indicazione dell'origine, cioè da dove proviene il latte. Un'indicazione in più che condivido, diciamo, col Presidente della CIA, che non risolve, diciamo, tutti i problemi anche per quanto riguarda il consumatore, perché ad esempio un discorso è la trasparenza, un discorso è la sicurezza, no? Poi alimentare, nel senso che indicare l'origine non significa per forza che un prodotto è straordinario, che è sicuro, che è... Certo, cioè, è un altro tema quello e deve essere garantito da controlli veterinari e dalle autorità preposte. Assolutamente, certo. Però è un'informazione in più. Viene continuato, diciamo, ad essere, come dire, insomma, questi controlli essere espletati. Altro discorso sarebbe, per esempio, sui formaggi, sapere se effettivamente è stato utilizzato latte fresco piuttosto che latte congelato o cagliata. Questa sarebbe, come dire, sì, un'indicazione che ci metterebbe al riparo anche da eventuali, come dire, prodotti a qualità più scadente. Ma sicuramente, diciamo, salutiamo molto positivamente questa iniziativa, insomma, che ci aiuta naturalmente sullo scaffale a scegliere in maniera più consapevole, sicuramente. Ci spieghi esattamente, Enrico, allora che tipo di informazione troveremo sulla confezione di latte e sulla confezione di formaggio che ci piace, appunto, deve essere indicato il paese di mungitura. E poi il paese di confezionamento e trasformazione. Qualora tutti questi tre passaggi, ad esempio, avvengano, diciamo, in Italia, è possibile anche semplicemente sintetizzare il latte di origine italiana. Insomma, Italia. Latte di origine, origine Italia. Del latte Italia, esatto. Qualora invece una di questi procedimenti avviene, ad esempio, in uno Stato europeo piuttosto che extraeuropeo, bisogna dettagliare la filiera, magari latte munto in Germania, trasformato in Italia, confezionato in Italia. Se invece tutte queste fasi avvengono in un paese o in diversi paesi europei, può essere anche semplicemente indicato latte di origine paesi UE oppure latte di origine paesi non UE, qualora, diciamo, come dire, la provenienza travalica i confini della Comunità Europea. Sì, volevo sentire il presidente Scanavino per capire quanti produttori, se ha un'idea di quanti associati alla sua organizzazione, ipotizziamo anche alle altre, dovranno mettersi in regola con la riscrittura di tutte le confezioni, presidente. Sarà un problema per voi questo? Beh, intanto ci sono delle deroghe, esistono deroghe per chi vende direttamente al consumatore e alcune deroghe che vanno incontro alle aziende agricole, cioè laddove c'è un rapporto diretto tra consumatore e produttore ovviamente non c'è l'obbligo di etichettatura, per cui ecco, i produttori agricoli sono coinvolti in quanto fornitori delle cooperative, delle latterie, delle industrie di caseificazione, non tanto quanto addetti alla commercializzazione dei prodotti lattieri o lattiero-caseari. Per cui ecco, il nostro vantaggio dovrebbe derivare da una maggiore attenzione ai consumatori che dovrebbero scegliere prodotti con latte italiano, dando più forza al settore dell'allevamento bovino nazionale. Certo, ma in passato, presidente, poteva capitare che del latte munto altrove venisse spacciato per latte munto in casa nostra? Ma era facile aggirare la comunicazione? Questo, direi che c'era un'ambiguità, nel senso che poteva essere indicato con un marchio italiano e senza specificare se il latte era o fosse o non fosse italiano, per cui questa ambiguità viene superata. Lei tenga conto che il latte OHT, per esempio, è molto del latte OHT è straniero, perché ha dei prezzi che gli italiani non possono permettersi. È quello pastorizzato. Cos'è? Esatto, quello a lunga conservazione. No? Sì. E questo lei tenga conto però che noi siamo forti importatori, cioè non siamo deficitari in quanto produttori di latte. E la nostra idea, della mia organizzazione, è che dobbiamo concentrarci sui prodotti ad alto valore, cioè sui formaggi top che sono famosi in tutto il mondo. No? Quindi ecco, il nostro core business non è fare latte OHT, ma è fare latte fresco e formaggi di alta qualità. E se è fresco, freschissimo, insomma, è ovvio che è l'auspicio che sia tutto italiano, che non arrivi chissà da dove, se il confine è qua dietro. Quello dovremmo farlo diventare tutto italiano. E poi formaggi di grande qualità, e poi se il latte OHT lo importiamo, pazienza, insomma, lo possiamo permettersi. Allora, grazie al presidente Dino Scanavino, C Agricoltori Italiani. 10 secondi con Enrico Cinotti. C'è un ascoltatore che ci chiede: ci sono obblighi per le gelaterie alla luce della novità di cui state parlando questa mattina, grandi consumatori di latte? In termini di obblighi non lo so, Enrico, sicuramente anche loro guarderanno adesso le etichette, appunto, e delle confezioni del latte che consumano. Enrico, mi auguro che le gelaterie, quantomeno quelle artigianali, utilizzino solo ed esclusivamente latte fresco. Per cui naturalmente sulle confezioni che vengono utilizzate il latte fresco, la tracciabilità era già la norma. Ci auguriamo naturalmente che non venga utilizzato più che altro latte in polvere, diciamo, ecco, esatto, però insomma quando, è sempre qua l'augurio, ma obblighi non ne abbiamo. Ne parleremo un'altra volta, magari una bella puntata con Nicoletta dedicata al gelato, il nostro alimento preferito estivo. Grazie anche ad Enrico Cinotti. È facile fare la spesa se sai leggere l'etichetta. Il suo ultimo libro c'è al giornale radio, torniamo tra poco. Expo due anni dopo. Dall'Agenzia Europea del Farmaco che lascia il Regno Unito a seguito della Brexit al nuovo polo tecnologico universitario. Le possibilità offerte dagli spazi costruiti per l'esposizione universale sono la nuova sfida che affronta Milano. Il nuovo viaggio di Radio 24 dal 17 al 22 aprile, ogni mattina nel GR delle 7. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta ancora. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Nicoletta torna con me domani, ma naturalmente non potevamo mancare di tornare a commentare questo tema, appunto, di cui si parla oggi tantissimo su tutti i giornali. Ne abbiamo già anticipato, appunto, nel collegamento del nostro giornale radio. Il primo approfondimento di Cuore di oggi è dedicato al tema vaccini. Allora, primo punto, non entriamo nel merito delle polemiche nei confronti del servizio su Report sul vaccino antipapillomavirus. Quello che è certo è che quando si parla di vaccini si crea subito polemica, in qualunque modo venga affrontato l'argomento, per cui proviamo stamattina a fare un po' di chiarezza con il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, docente della Humanitas University. Buongiorno e bentornato, l'ho detto un po' all'inglese, professor Mantovani. Ben ritrovato, grazie per aver raccolto il nostro invito, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Lei è un immunologo, ha pubblicato anche un libro dal titolo Immunità e vaccini, edito da Mondadori. È un tema che conosce molto bene, che le sta soprattutto molto a cuore. Allora, ci dà subito la sua considerazione su questo punto, che deriva naturalmente una considerazione che deriva anche in primo luogo dall'esperienza. Secondo lei, che cosa non va nella comunicazione del tema, nel tema appunto dei vaccini? Perché deve sempre diventare un tema così profondamente divisivo? Ma io penso che ci siano diversi motivi. Il primo motivo per cui non ci rendiamo conto dell'importanza dei vaccini è che i vaccini sono vittime del loro successo. Cioè noi non abbiamo più idea di cosa sia la polio perché ci vacciniamo contro la polio. La polio, se non ci vacciniamo, torna. E io ho visto la polio di striscio con un mio compagno di classe con la gamba atrofica. Dobbiamo leggere un libro come Nemesi di Philip Roth per ricordarci cos'era la polio. Ecco, la polio, la difterite, i bambini che morivano di croup difterico non sono scomparsi spontaneamente. Quindi i vaccini sono un po' vittime del loro successo. Il secondo motivo sono le menzogne, le bugie che circolano in rete, ed è una bugia, per esempio, una bugia clamorosa, il fatto che ci sia una connessione fra autismo e vaccinazione, in particolare vaccinazione contro il morbillo. L'autore di questa bugia ha un nome, è un signore che si chiama Wakefield, dico signore perché è stato espulso dall'ordine dei medici inglese a causa di questa bugia. Il terzo motivo è che non abbiamo la percezione del valore di solidarietà della vaccinazione. Le faccio un esempio personale. Io recentemente io ho sei nipotini e personalmente ho fatto una vaccinazione contro varicella al mio quinto nipotino che si chiama Massimo. Ecco, quando io ho fatto quella vaccinazione ho allacciato la cintura di sicurezza a Massimo, ma al tempo stesso ho allacciato la cintura di sicurezza a tutti quei bambini e adulti che non possono allacciarsela, cioè quei bambini in cui il vaccino è inefficace o che non possono vaccinarsi, mentre ha evitato quindi il contagio praticamente nel caso lo prendesse suo nipote. Esatto, ecco. Perché la protezione di questi bimbi dipende dall'immunità che chiamiamo del gregge, io preferisco parlare della comunità, perché se siamo vaccinati in un numero sufficiente impediamo al virus, in questo caso al virus della varicella, ma lo stesso, più importante, il virus del morbillo, di circolare. Quindi c'è questa dimensione di solidarietà che è intrinseca alle vaccinazioni. Pensiero mentre qualche noi volta parliamo, esatto. Ci sono 1500 bambini con cancro in questo paese, la maggior parte di questi hanno problemi del sistema immunitario e sono a grave rischio se, ad esempio, si ammalano banalmente di morbillo. Sì. E l'ultimo punto, se posso ancora, si è diffusa l'idea che la malattia naturale ci faccia bene, che un'infezione da morbillo sia una cosa buona per crescere e per rafforzare il nostro sistema immunitario. Non c'è niente di più sbagliato. Questi agenti patogeni conoscono il sistema immunitario e causano un'immunosoppressione profonda e di lunga durata, fino a 2 anni. Il mio slogan è che il miglior allenamento è costituito dal vaccino. Professor Mantovani, mi colpiva, a parte, mi hanno colpito profondamente tutte e quattro le considerazioni che lei ha fatto, ripartendo dalla prima: i vaccini sono vittime del loro successo. Mettendolo un po' in maniera diversa, è un po' come dire, in medicina contano anche i numeri, i grandi numeri, ma forse da soli non bastano, perché le persone poi si lamentano ugualmente e trovano sempre il taglio della cronaca per poterlo fare, di non essere adeguatamente informate sugli effetti collaterali. E questo, tra virgolette, non detto, fa venire dei dubbi. Allora ci spiega come ci dobbiamo comportare in questo caso, anche noi come divulgatori di questi argomenti che sono così delicati? Ma innanzitutto noi siamo chiamati a grande e assoluta trasparenza. Quindi i dati devono essere, se sono dei dati, devono essere assolutamente trasparenti. Questo è il primo punto. Noi, qualunque intervento medico, si basa su una valutazione dei benefici e dei rischi. Facciamo l'esempio della vaccinazione contro il morbillo, che è una di quelle più messe in discussione. Sì. Quando noi abbiamo il morbillo, lo abbiamo detto, l'ho scritto nel mio libro, che almeno il 20% di chi ha l'infezione naturale ha dei problemi gravi e ha un 30% di problemi. E lo stiamo vedendo in questi giorni nel nostro paese. Circa un paziente su 1000 avrà un problema grave di encefalite. E molti di questi sono encefaliti da cui non si ritorna, perché sono encefaliti sclerosanti. I problemi legati al vaccino sono un'encefalite a meno di uno su 1 milione, vuol dire che non riusciamo a contarle, e sono encefaliti benigne che revertono e non c'è nessuna correlazione con l'autismo. Quindi il bilancio dei rischi rispetto ai benefici, che deve essere fatto in modo trasparente e che dobbiamo fare tutti i giorni. Io per esempio prendo il paracetamolo per controllare la mia emicrania, è probabilmente il farmaco più sicuro che abbiamo, lo conosciamo da 100 anni, ma so che c'è una lontana probabilità che mi dia un problema epatico, ma vale la pena controllare il mio mal di testa. Chiarissimo. Ecco, e per tutti i vaccini abbiamo fatto questi ragionamenti. Dobbiamo prendere i vaccini quando vale la pena. Per esempio, non prendiamo, io quando sono andato in Vietnam per lavoro, in Africa per lavoro, mi sono vaccinato contro la febbre gialla. Non darei mai un vaccino contro la febbre gialla ai miei nipotini che non sono che non vanno in Africa. Hanno bisogno, naturalmente. Quindi, insomma, anche la prevenzione passa da una corretta informazione. Volevo segnalare ai nostri ascoltatori che, peraltro, ritornando per un attimo al tema oggetto anche dell'inchiesta di Report, il vaccino contro il papilloma virus è un tema che riguarda la salute femminile. Domani Nicoletta ne parlerà con la professoressa Rossella Nappi in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che ci porterà in un paio di focus anche nel corso di tutta la settimana fino a venerdì prossimo. La Giornata Nazionale della Salute della Donna si celebra il 22 aprile. Prima di salutarla, professor Mantovani, un attimo ritorniamo sulla questione morbillo, perché c'è proprio questa notizia di ieri, questo avviso lanciato dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie di Atlanta negli Stati Uniti. Questo è il più importante organismo di controllo sulla sanità pubblica negli USA e ha invitato i cittadini americani diretti in Italia ad usare delle precauzioni e accertarsi appunto di essere vaccinati e se non lo sono appunto di vaccinarsi subito. Per la prima volta appunto l'Italia è nella lista dei paesi a rischio. Come commentiamo questa circostanza? Ma innanzitutto con grande tristezza, perché il nostro paese è un paese di inventori nel campo dell'immunologia e della vaccinologia. In queste settimane Rino Rapuoli ha ricevuto uno straordinario premio Gartner proprio per il contributo alla creazione di nuovi vaccini. Quindi il nostro è un paese di grandi inventori, di grandi fabbricanti di vaccini e di grandi implementatori di politiche vaccinali. Quindi stiamo tradendo la grande tradizione di questo paese. Quindi io ho accolto questa notizia con grandissima tristezza. Il secondo punto che vorrei dire è che la settimana scorsa parlavo con il professor Andrea Biondi dell'ospedale di Monza, che è un grande oncologo pediatra, che aveva una serie di bambini ricoverati con complicanze da morbillo. Uno di quei bambini aveva una polmonite morbillosa a grave rischio di morire, era un bambino con leucemia linfatica acuta, un bambino che aveva e avrebbe più del 90, con le nuove terapie immunologiche, il 95% di probabilità di guarire, è un bambino che rischia di morire di morbillo. E l'anno scorso uno dei pazienti di Andrea, ancora un bimbo di 18 mesi con leucemia linfatica acuta, è morto di morbillo. Io sono indignato. Perché è morto di morbillo? Perché è caduta il livello di immunità del gregge, io ripeto, lo preferisco chiamarlo l'immunità della comunità, di una comunità solidale. Quando i miei nipotini si vaccinano, allacciano la cintura di sicurezza a se stessi, ma anche a quei bimbi che hanno un sistema immunitario compromesso, e sono 1500 solo quelli con cancro, la cui difesa dipende dal fatto che anche i miei nipotini si vaccinano. Professor Mantovani, ci piace molto questo messaggio associato all'immagine della cintura di sicurezza. Mettiamo in sicurezza noi, i nostri bambini e tutta la comunità in questo spirito di solidarietà che ci circonda. Grazie per essere stato con noi, per aver commentato con il suo tono assolutamente, come dire, ovviamente competente e corretto queste informazioni. Grazie per essere stato con noi. Noi adesso cambiamo argomento per il prossimo piccolo focus e ci occupiamo dei nostri capelli. Come porti i capelli, bella bionda, tu li Scusi, porti alla bella Marinara. Guardi, di solito io i capelli me li fai, dipende molto anche dal modo di, comunque me li tiro tutti indietro, poi faccio con una spilla, me la punto sul cervello qui, li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco. E voi come li portate i capelli, soprattutto come li trattate? Oggi prima di andare alla borsa ci occupiamo anche dei nostri capelli, perché ce lo impone la stagione, anche loro si stressano un po' con il cambio di stagione. Prendiamo spunto anche da questa foto che è stata postata nei giorni scorsi dall'ex First Lady Michelle Obama, che mostra i suoi capelli così come sono, proprio nature, ricchissima ovviamente, senza l'uso di piastre o permanenti. La foto è diventata virale, allora noi vi chiediamo, se volete mandateci la foto dei vostri capelli, delle vostre chiome. Non diventerà virale, non diventerete famosi, ma magari avremo le idee più chiare da condividere con la nostra ospite, la dottoressa Anna Trink, dermatologa, che salutiamo. Buongiorno, benvenuta e grazie. Buongiorno Deborah, grazie a voi per l'invito. Allora, la primavera è partita per le nostre chiome, questo cambio di stagione, come è vissuto? Più un risveglio, come accade per la natura, o uno stress? Nella maggior parte dei casi purtroppo si tratta di uno stress, perché la primavera si porta con sé una serie di associazioni sfortunate che possono peggiorare la situazione dei nostri capelli. Perché? Intanto perché aumenta il ricambio dei capelli dovuto a una sorta di memoria storica, da considerarsi peraltro assolutamente normale, che è quello che ci porta alle cadute stagionali. Secondo, perché in primavera tendenzialmente le malattie infiammatorie del cuoio capelluto, come la dermatite seborroica, tendono ad avere un peggioramento spontaneo, e poi perché spesso si comincia a essere stressati per la prova costume, quindi ci si sottopone a diete particolarmente rigide o a un'attività fisica eccessivamente intensa, e tutto questo può causare un aumento della caduta dei capelli proprio per stress sia fisico che emotivo. C'è un ascoltatore che ci scrive, lo salutiamo con affetto, Marco da Giulianova: magari avessi problemi di capelli stressati, sono calvo da 10 anni. Marco ha un problema in meno, è tranquillo, quindi diciamo il cambio di stagione lei, come dire, lo deve gestire per altre questioni. Dottoressa Trink, per la pelle si parla di fenotipo e fototipo. Per i capelli, mi pare, se non ricordo male dalle trasmissioni già fatte con Nicoletta, forse siamo un po' a corto di classificazioni. No? Lei di quali indicazioni ha bisogno per darci il consiglio su misura per noi? Le interessa sapere, per esempio, non so se sono secchi, grassi, normali, ricci, lisci, ondulati, biondi, castani? Cosa vuole sapere da noi? alcune informazioni che riguardano i capelli in senso stretto, quindi effettivamente sì, se c'è una caduta più importante del solito, se c'è un diradamento, se sono capelli secchi o sono capelli grassi, o se ci sono sintomi associati, soprattutto a carico del cuoio capelluto, quindi prurito, dolore, forfora, eccetera. Ma in generale quello che in genere ci interessa molto è anche dove vivete, perché dà un'idea dell'esposizione solare e dell'esposizione all'inquinamento atmosferico, e anche cosa mangiate, perché l'alimentazione è una cosa molto importante per il benessere di capelli e cuoio capelluto. E i prodotti che usiamo per lavarli, sistemarli, detergerli, farli un po' più ricci, un po' più lisci, anche questo le interessa sapere? Certamente sì, e non solo mi interessa sapere il prodotto, ma anche il modo d'utilizzo, perché spesso il prodotto è di altissima qualità, ma utilizzato nel modo scorretto non ha nessun effetto benefico come potrebbe. Lei non sa che dibattiti ci sono in redazione tra me, Nicoletta, e la nostra assistente Laura Vanossi, perché abbiamo delle correnti di pensiero molto diverse. Io, frequentando molto la palestra, lavo tanto, loro un po' meno, e ovviamente qua parte il dibattito sul chi, se si lavano troppo, si stressano troppo. Altri suoi colleghi invece arrivano qua e ci dicono il capello è esattamente come la faccia, va lavato tutti i giorni, perché poi soprattutto con l'aria di Milano, altro che stress stagionale, qua è quotidiano orario, direi, dottoressa Trink. Esatto, infatti a me piace molto fare il paragone, perché secondo me rende l'idea tra capelli e denti. I denti non è che non li laviamo perché abbiamo paura che cadano se li laviamo troppo, esattamente il contrario, li manteniamo puliti proprio perché così li manteniamo in salute. Stessa cosa per i capelli, vanno tenuti puliti, quindi se questo significa che abbiamo bisogno di lavarli tutti i giorni, in particolare per città appunto in cui l'inquinamento è importante, devono essere lavati tutti i giorni, certo. Non abbiamo paura di lavare i capelli. E poi il phon, come la mettiamo con questo fattore di stress che viene appunto come dire, utilizzato da molti di noi necessariamente, soprattutto in inverno, ma magari abbiamo la sensazione che dia un po' fastidio al capello nell'uso eccessivo, non possiamo però star fuori bagnati con la testa. Certamente, quindi è una di quelle cose che dobbiamo per forza fare. Quello, il consiglio che si può dare è intanto frizionare delicatamente l'asciugamano dopo averli lavati, in modo tale che una parte sia già andata di acqua. E secondo è evitare le temperature troppo alte, in modo tale che la disidratazione sia più in bassa possibile. E terzo, quello che veramente sottopone il capello allo stress è la trazione sotto calore. Quindi effettivamente il tirare i capelli con la spazzola sotto un'alta temperatura di phon è quello che può comprometterne più di tutto la salute e l'aspetto estetico. Io le farei... Sì, no, mi scusi, no, l'ho interrotta solamente perché stavo guardando i messaggi su WhatsApp e contrariamente a tutte le mie attese, come al solito qua siamo sempre circondati dai pregiudizi, sono solo gli uomini a scriverci stamattina. Ma sono un po' più stressati da capello gli uomini rispetto alle donne, dottoressa Trink? No, secondo me i capelli per l'uomo sono come le rughe per la donna, nel senso che per loro è un primo segno di invecchiamento, quindi esatto. Infatti, senta, invece per i bambini, c'è Jessica che ci scrive, per le chiome dei bambini qualche consiglio? Mia sorella dice sempre che i bambini hanno i capelli autopulenti, pure quando stanno male 20 giorni i capelli non si stressano mai, hanno sempre quella setina in testa, eppure vanno curati, anche per loro c'è il problema del cambio di stagione? No, è vero che ne risentono molto meno, anche perché in effetti per un meccanismo ormonale che ovviamente ancora non è instaurato fino alla pubertà, si sporcano molto meno, questo è vero, non è che sono autopulenti, ma producono molto meno sebo, quindi si sporcano meno. Vale la stessa regola per loro di tenerli puliti e soprattutto, visto che parliamo di prevenzione, proteggerli dal sole, perché ormai è passato il messaggio di mettere la protezione 50 sulla pelle di tutti i bambini, non si pensa mai al cuoio capelluto che invece è importante allo stesso modo, quindi utilizziamo la protezione solare anche sui capelli e sul cuoio capelluto dei bimbi. Certo, senta, ovviamente lei ci diceva correttamente prima che tutte le situazioni sono diverse, ogni individuo ha la sua testa, ha la sua chioma, le sue esigenze. Silvio ci scrive, ho 52 anni, porto i capelli a spazzola, non ho forfora né capelli grassi, li lavo una volta ogni due settimane. Faccio bene? È un po' tanto questo lasso di tempo, oppure può andar bene se lui non sente il bisogno, se la sua testa è sempre a posto? No, diciamo che ragionevolmente sarebbe comunque meglio che il lavaggio fosse fatto una volta ogni 2-3 giorni al massimo, anche in assenza di sintomi particolari del cuoio capelluto, perché può darsi appunto che ci sia una sorta di accumulo di sostanze tossiche che possono portare nel tempo a uno sviluppo di patologie infiammatorie magari banali del cuoio capelluto, ma nel tempo possono peggiorare la salute dei capelli e del cuoio capelluto, quindi meglio al massimo una volta ogni 2-3 giorni. Allora, li vediamo un po' affaticati per provare a capire se è un fattore stagionale o se c'è qualche altro piccolo problemino da andare a controllare, ci presta il suo occhio clinico, dottoressa Trin, che ci aiuti a capire se appunto il problema della nostra chioma è fisiologico o invece potrebbe tradire un problema più serio. Che cosa dobbiamo guardare, visto che, come dice sempre Nicoletta, i capelli, come tanti altri aspetti della nostra vita, del nostro corpo, sono un po' lo specchio della nostra salute. Insomma, che cosa dobbiamo controllare? Allora, i capelli, come diceva, in senso stretto, quindi se cadono e da quanto tempo cadono, perché le forme di caduta stagionale sono generalmente autolimitanti fino a un paio di mesi. Se la caduta diventa persistente, probabilmente c'è bisogno di approfondire l'argomento. Se non cadono ma si assottigliano, che può essere segno invece di un'incipiente calvizie, per quanto riguarda il cuoio capelluto, se è sano o se c'è qualche sintomo di malattia infiammatoria, quindi come dicevamo prurito, bruciore, dolore, che è una cosa che è molto frequente, di frequente riferiscono i pazienti, mi fanno male i capelli quando li sposto, questo per noi è un segno molto importante di infiammazione. E poi se ci sono dei sintomi sistemici concomitanti. Vi faccio degli esempi pratici che ovviamente meritano un'indagine medica, però per esempio ho un aumento di caduta, ho dei capelli estremamente secchi e ho delle palpitazioni a riposo, questo può far pensare che ci sia una disfunzione tiroidea, quindi va bene fare una visita medica approfondita. Oppure banalmente ho un grande aumento di caduta in coincidenza con un importante calo di peso e con onicolisi, cioè unghie che si sfaldano spontaneamente senza subire traumi, fa pensare a una carenza alimentare. Quindi il consiglio è, se c'è una caduta persistente che però pare autorisolvente, sì, in assenza di qualunque altro sintomo sia sistemico che di guarire il cuoio capelluto, possiamo pensare sia una caduta stagionale. Se invece ci fossero altri sintomi, se la caduta supera i due mesi, ebbene un approfondimento medico. Insomma, sono certa che ce ne possiamo accorgere in via individuale. Dottoressa Trin, grazie per essere stata con noi. I temi rimasti indietro sono davvero tanti, quindi abbiamo messo in cascina un po' di argomenti da trattare con lei eventualmente in un'altra imminente puntata, perché peraltro anche gli ascoltatori in tanti ci hanno scritto, interpellato, mandato foto. Molti per esempio chiedono che cosa ne pensa dell'utilizzo dei ferri arricciacapelli, della piastra tutti i giorni, soprattutto pratiche che usano le giovani donne. Ne parleremo in un'altra puntata, oggi non ce la facciamo. Saluto anche Daniele da Roma che ci chiedeva un suggerimento. Daniele ci scrive a cuoredenari@radio24.it, chiederemo aiuto alla dottoressa Trin. Adesso è tardissimo, devo andare alla borsa e poi andiamo alla dichiarazione dei redditi precompilata. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse! Sire! Voi siete bravissimo a convincere i poveri a farvi omaggio dei loro risparmi! Per coniare una frase, mio caro consigliere, ruba al povero per sfamare il ricco! Questa è buona! Sì! Vabbè, insomma, anche per questa puntata abbiamo scomodato Robin Hood, ma chiaramente in quel periodo là difficilmente faceva la precompilata. La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da ieri per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal fisco. Dal 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla se necessario e poi inviarla entro il 24 luglio nel caso del modello 730 o entro il 2 ottobre nel caso del modello redditi. Fra le principali novità, lo sapete, c'è la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati o quelle relative alle prestazioni di psicologi, ostetriche, radiologi, strutture autorizzate, non accreditate. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacia, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, come dicevamo prima, e quant'altro. Spazio anche alle spese veterinarie, insomma tante novità in una precompilata che entra sempre più a regime. Giovanni Parente, da Roma, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Articolone stamattina, pagina 35 di norme e tributi, precompilata, primo check sui dati già ieri, nella prima giornata in cui l'Agenzia delle Entrate ha reso possibile appunto l'accesso per il controllo delle informazioni, sono stati oltre 200.000 gli accessi, chissà già quanti stamattina hai controllato, Giovanni? Allora, aspettiamo l'aggiornamento, penso a metà giornata, però insomma c'è comunque anche dopo il terzo anno di sperimentazione c'è molto interesse per la precompilata. Peraltro ieri mattina un ascoltatore ci scriveva alle 10:30 appena partite con Cuore e Denari: sto provando ad entrare ma non mi permette l'accesso l'Agenzia delle Entrate, poi ho scoperto che l'accesso era possibile dalle 13:30 in avanti. Esattamente, hanno comunicato a metà mattinata che l'accesso sarebbe stato possibile dalle 13:20, insomma, ecco. Abbiamo bisogno ovviamente anche del conforto dello specialista del fisco, Luca De Stefani, commercialista esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, ben ritrovate, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, e naturalmente come sempre anche microfoni aperti ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24 per poter intervenire. Già notavo ad inizio trasmissione di un ascoltatore che chiedeva dei chiarimenti sul reddito da pensione, vediamo se riusciamo poi con i nostri assistenti, con Marco e Laura appunto, a recuperarlo. Allora Giovanni, a prescindere dalla scaletta che avevo preparato, mi direi che mi attengo alla scaletta del tuo articolo di questa mattina sulle Sole 24 Ore. Dicevamo prima, oltre 200.000 gli accessi al sito delle entrate nel primo giorno della precompilata 2017, di cui il 56% con le credenziali fisco online, il resto invece con gli altri PIN abilitati. Cosa ci vuol dire già subito questa prima differenziazione percentuale? Ma sostanzialmente che chi ha un PIN per l'accesso ad altri servizi dell'Agenzia delle Entrate l'ha utilizzato per poter anche accedere alla dichiarazione precompilata. Non l'abbiamo scritto nell'articolo, ma c'è comunque un buon 33% di chi ha le password, ha il PIN dispositivo dell'INPS e l'ha utilizzato per poter entrare nella dichiarazione precompilata. Il resto delle modalità di accesso, ricordiamo che ci sono lo SPID, noi PA, è stato usato in maniera un po' più residuale, quindi insomma il grosso lo fanno le password dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Certo. Allora, lo scorso anno, nella prima giornata appunto di debutto, erano stati 150.000 gli accessi dei contribuenti che vogliono appunto aderire a questa opzione. Quest'anno oltre 200.000, quindi si consolida sempre di più l'operazione, dicevamo, precompilata. Piace o non piace, Giovanni, secondo te? Insomma, stanno prendendo sempre di più confidenza i contribuenti con questo strumento, ma secondo te per quale motivo? Perché non vogliono più avvalersi dei commercialisti o perché c'è qualche altra ragione? Ma io, Deborah, posso dirti che secondo me c'è voglia di semplificazione, c'è voglia di un fisco un po' più semplice, perché in Italia, lo sappiamo, c'è il problema delle tante tasse da pagare, ma le tasse sono tanto complicate, è sempre così difficile muoversi nei meandri di quanto bisogna pagare, come bisogna pagarlo, le dichiarazioni da fare. Quindi la precompilata è un segnale distensivo nei confronti dei contribuenti, è normale. Ieri abbiamo letto tanti commenti sui social, questo non c'è, questo non funziona, è un meccanismo che va rodato nel tempo perché i dati arrivano da fonti diverse, quindi è necessario allora, che i dati siano corretti. Semplificazione, il messaggio è stato chiaro, intanto che bevi un goccio d'acqua vado a Luca De Stefani, sempre scorrendo il pezzo di Giovanni Parente scritto insieme a Cristiano Dell'Oste quest'oggi sul Sole. Quello che dicevamo prima, molti gli accessi, oltre 200.000, conta però la qualità dei dati trasmessi al fisco e precaricati, che noi come contribuenti possiamo visualizzare dal sito appunto delle entrate. C'è proprio questo questa sezione, una volta che utilizzando le credenziali siamo entrati appunto nella piattaforma, visualizza i dati dal sito delle entrate, oppure possiamo andare direttamente al cosiddetto foglio riepilogativo. Luca De Stefani, che cos'è? Cosa ci racconta questo documento? Sì, in pratica il foglio riepilogativo è il conguaglio praticamente della dichiarazione di redditi, riepiloga tutti quanti i diversi dati. E vi è una sezione informativa, che non è proprio la dichiarazione precompilata, in cui sono indicati tutti quei dati che sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti terzi, ma che però l'Agenzia delle Entrate non è sicura che sono corretti, e quindi li mette lì in questo foglio informativo in cui il contribuente ha il dato e, se lo ritiene corretto, lo inserisce all'interno del modello precompilato. Ecco, il sito è molto fatto molto bene e non ha solo la possibilità di fare il famoso 7:30 precompilato, e cioè la dichiarazione dei redditi che viene proprio datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Sostitutore d'imposta, sì. Esatto, ma dà anche la possibilità di presentare un modello unico vero e proprio. Nel caso specifico è possibile avere un unico web o unico online. In pratica io che devo fare il modello unico, che ho la partita IVA ad esempio, sono un lavoratore autonomo, un professionista, un imprenditore e voglio inserirci anche i quadri relativi al reddito di impresa, posso utilizzare questa dichiarazione precompilata, che sarà un unico, un modello redditi diciamo precompilato, e mi trovo già gli stessi dati che trova il lavoratore dipendente o il pensionato che fa il 730, li trovo anche nel modello unico, quindi spese mediche, interessi sui mutui e così via, sono dati non solo dedicati e precompilati per chi fa il 730, ma anche per chi oggi fa il modello unico. Certo, senta, rimanendo un po' alle situazioni più semplici, quelle nelle quali si possono identificare magari gli ascoltatori che ci stanno seguendo questa mattina, secondo anche la sua esperienza, De Stefani, quali sono i dati che più facilmente possono mancare ad una prima visualizzazione appunto del foglio riepilogativo e dati che raccontano naturalmente la nostra storia di contribuenti che immaginiamo possano già essere stati trasmessi da chi doveva farlo all'Agenzia delle Entrate per riportarli appunto sul foglio riepilogativo, magari non ci sono o sono sbagliati, margini di errori più diffusi ancora quali sono? Sì, vi possono essere i figli nati lo scorso anno, ecco, ad esempio, perché magari non sono stati comunicati al datore di lavoro e quindi non sono presenti i dati nel modello Q che il datore di lavoro ha spedito sia al contribuente che all'Agenzia delle Entrate. Perché qua non è l'anagrafe che devo dirla all'Agenzia delle Entrate, è il datore di lavoro. Esatto, esatto. È il datore di lavoro che con il modello, la certificazione unica, cosiddetto modello Q, che viene spedito a tutti i contribuenti, consegnato a tutti quanti i contribuenti entro fine di marzo, ci ha indicato questo dato, che è appunto i figli nati lo scorso anno. E poi può anche non essere presente, ad esempio possono essere presenti le spese per le ristrutturazioni. Allora quest'anno abbiamo avuto un obbligo nuovo per quanto riguarda gli amministratori di condominio, esatto, quindi per le manutenzioni ordinarie sulle parti comuni e anche quelle straordinarie comunque sulle parti comuni vi è stato l'obbligo da parte degli amministratori di condominio di spedire all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dai diversi condomini. Quindi questo dato infatti hanno chiesto a tutti i condomini di certificare una serie di documenti e lì insomma hanno avuto vita non facile gli amministratori di condominio per raccogliere tutto quello che serviva per poter essere poi trasferito all'Agenzia delle Entrate. Volevo ritornare per un attimo, Luca, scusami se ti interrompo, proprio a Giovanni Parente, perché sull'articolo del Sole di questa mattina si sofferma proprio sul tema degli immobili, il capitolo più delicato, perché tra il 2015 e il 2016 è stato proprio questo l'ambito, il campo in cui c'è stata la più alta intensità di correzioni. Cosa vuol dire, Giovanni Parente? Il problema è che molte volte l'anagrafe tributaria contiene dei dati che non sono perfettamente aggiornati. Allora, l'Agenzia delle Entrate sappiamo che negli ultimi due anni ha fatto un'operazione di pulizia dei dati relativi agli immobili, però i valori catastali, le associazioni tra codici fiscali e particelle catastali degli immobili non sono più correttamente rispondenti. Quindi è uno dei campi in cui c'è il maggior numero di errori nel dato precaricato. Quindi lì bisogna essere molto attenti e fare delle valutazioni di corrispondenza se il dato inserito all'Agenzia delle Entrate è effettivamente aggiornato oppure superato, oppure possono esserci dei casi, come abbiamo riscontrato con i colleghi con cui abbiamo fatto un po' delle prove sul campo ieri, per cui c'era il contratto agli estremi del contratto di locazione ma non veniva riportato l'intero canone percepito dal proprietario dell'immobile. Quindi sugli immobili raccomandiamo sempre di fare grandissima attenzione. Poi, come dicevate giustamente voi, questione dei bonus legati ai lavori in casa, agli ecobonus. Anche quest'anno la prima rata non viene riportata all'interno del modello, ma è nel foglio informativo, cioè quindi è leggermente a fianco. Pertanto chi ha fatto dei lavori l'anno scorso e quindi porta la prima rata in detrazione a partire appunto dalla dichiarazione 2017 deve inserirli all'interno del modello, perché c'era una questione che ci hanno anche spiegato all'interno a Telefisco l'anno scorso, per cui loro non sanno l'esatta rispondenza della spesa con il parametro soggettivo di chi poi ne fruisce effettivamente. Quindi è sempre il contribuente che poi deve materialmente prendersi quel dato e metterselo a inserire. Mm-hmm. Mentre per le rate successive non c'è problema, perché noi abbiamo magari sostenuto una spesa nel 2015, ci riportiamo avanti la rata che è in qualche modo spalmata sui 10 anni. Allora ci fermiamo, c'è il traffico, poi entriamo nel campo delle spese sanitarie con la domanda di Stefano da Livorno. 800 24 00 24 numero verde per i vostri interventi. Ci state scrivendo anche su WhatsApp, ad esempio Renzo da Rimini ci chiede se troverà nella precompilata anche le somme versate come donazione a Onlus. Quindi Giovanni e Luca, preparatevi le risposte, perché io non le so. A tra poco. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Cuore e Denari. Io non pago le tasse perché non ho più soldi dentro le tasse. No, no, per carità, paghiamole, anzi paghiamole tutti, perché così pagheremmo un po' meno. Un tema vecchio come il mondo. Noi oggi ci dedichiamo alla precompilata versione 2017, più che ai nastri di partenza, perché è partita ormai ieri. Si può visualizzare dal sito dell'Agenzia delle Entrate il cosiddetto foglio riepilogativo della nostra situazione, e non solo, in realtà le parti a cui accedere sono tante. È un sito ricco e anche ben fatto, ci diceva Luca De Stefani. Io non ho controllato, comunque 30 milioni di modelli, 730 redditi sono appunto pronti a poter essere visualizzati da ieri, e ne hanno già approfittato almeno 200.000 contribuenti. Con noi stamattina Giovanni Parente e Luca De Stefani, ci stanno aiutando appunto a capire qualcosa in più rispetto a questa operazione di quest'anno. Allora, Stefano da Livorno con il capitolo spese sanitarie, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti. Ci dica. Dunque, la mia domanda era questa. Io ieri sono stato uno dei contribuenti che... dei 200.000. Esatto, uno dei 200.000 che è entrato nel sito del Ministero delle Entrate, e devo dire che in effetti confermo che è fatto bene, è molto intuitivo, solo che ora appunto sto valutando tutte le voci che ci sono, e ho notato che, a differenza dello scorso anno, o almeno è molto più specifica quest'anno, ci sono già assegnati tutti i bonifici che ho fatto per una ristrutturazione edilizia, e anche tutte le medicine, gli scontrini, diciamo, che ho speso, sono già stati tutti riportati. Benissimo. La domanda è questa, quindi. Deve conservare i documenti? Bisogna continuare a conservare i documenti, oppure fa testo? Già la documentazione è sufficiente, certo. In mano. Grazie molte. Una bella domanda, Luca De Stefani. Allora, noi diciamo sempre che quantomeno almeno un po' di tempo i documenti conserviamoli, no? Però in questo caso lui parla magari, che ne so, di scontrini rilasciati dalla farmacia. Sono stati riportati tutti correttamente nella precompilata? Dice, me la devo tenere tutta sta malloppa di carta? Purtroppo sì, siccome siamo ancora in un ambito sperimentale per quanto riguarda la dichiarazione precompilata, ma anche un domani sarà così, fino per 6 anni successivi all'anno della dichiarazione di reti, quindi successivi al 2016, quindi fino al 31 dicembre 2022, vanno conservati tutti i documenti e giustificativi delle spese sostenute, sia detraibili che deducibili. Per i CUD, dove è un reddito, quello non è, anzi è bene conservare anche quello sicuramente, perché l'agenzia potrebbe dire che ho inserito un reddito più basso rispetto a quello che ho veramente percepito e che era all'interno del modello CUD. Quindi diciamo in generale tutti i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2022. Allora, tra l'altro, non mi incuriosiva questo fatto, la circostanza in cui la farmacia, quando andiamo ad acquistare dei medicinali, ci chiede il codice fiscale, significa che in automatico, attraverso quella modalità, la farmacia è in grado di trasferire all'Agenzia delle Entrate l'importo che noi abbiamo speso e che va inserito in dichiarazione dei redditi. Basta solo quel semplice passaggio. Esatto, è un invio annuale cumulativo per tutti i dati dell'anno precedente, va spedito entro il 31 gennaio, quindi le farmacie e i medici devono inviare al Servizio Sanitario Nazionale, che poi invia il tutto all'anagrafe tributaria, tutti questi dati, e nel momento in cui faccio, do il consenso a, ad avere lo scontrino con il codice fiscale, ovviamente questo dato va all'interno di questo banca dati generale, però diciamo che c'è la possibilità entro metà febbraio all'incirca di comunicare il diniego all'utilizzo di questi dati per la precompilata. Quindi allora, anche se ho sbagliato, se ho inserito, se ho dato il codice fiscale al farmacista, posso entro i primi, primi giorni di febbraio comunicare il diniego all'utilizzo di questi dati per la dichiarazione. Chiarissimo. Per quello che riguarda la Onlus, che ci chiedeva prima Renzo da Rimini. C'è la possibilità di detrarre le erogazioni liberali date alle Onlus al 26%, quindi si ha uno sconto di imposta pari al 26% dell'importo pagato, a patto che vi sia sempre un bonifico, ecco, un pagamento tracciato tramite bonifico. Quindi Renzo, se lei ha fatto una donazione con un bollettino postale, difficilmente troverà la cifra inserita in precompilata. Deve essere stato fatto questo pagamento con bonifico? Chiarissimo. Quindi no, Renzo, la cifra precompilata non c'è, però. Cioè, nel senso, no, tu lo devi andare. In ogni caso, non Giovanni, c'è, esatto. Sì. Esatto. Non c'è nella precompilata? No. Ah, sono, ecco, dati che le Onlus non sono obbligate a spedire, perché ancora non c'è ancora questo obbligo da parte dei soggetti che ricevono questi contributi. Allora, Giovanni, adesso a prescindere dal tuo pezzo che ho già decantato 200 volte stamattina sul Sole, in realtà ieri sul sito del Sole c'era una parte molto articolata e molto dettagliata su tutti gli sconti che quest'anno è possibile, appunto, dei quali quest'anno è possibile appunto approfittare per una dichiarazione dei redditi, diciamo, più leggera. Ci sono tutti i bonus fiscali, per esempio, per i disabili, si va da tutti quelli che riguardano invece la casa, oltre che la salute, i trasporti, le gite, le mense, gli sconti per i figli a scuola, gli sconti sui contributi per babysitter e colf. C'è qualcosa da dire di interessante, di gradevole per i nostri contribuenti che è cambiata rispetto agli anni precedenti? Qualche sconto in più con il quale ancora non abbiamo preso magari confidenza, che vale la pena risegnalare ai nostri ascoltatori, visto che sono davvero tanti? Sì, diciamo che noi a inizio anno avevamo contato quasi 8 agevolazioni in più rispetto all'anno passato. Naturalmente, insomma, non si tratta di agevolazioni, diciamo, diffusissime, ma che in qualche modo vanno ad aiutare determinate categorie. Pensiamo ad esempio, debutta l'agevolazione a detrazione per chi acquista la prima casa in leasing, ma c'è anche la possibilità della detrazione dell'IVA per chi ha acquistato case in classe energetica elevata lo scorso anno, che insomma una detrazione che, come sa bene Luca De Stefani, è stata appena prorogata anche dall'ultimo decreto mille proroghe. Sì. Poi ritornano anche i premi di produttività, che per un anno erano stati sospesi, insomma non erano stati prorogati. Ci sono ancora c'è anche lo school bonus, che è una donazione che viene fatta alle scuole, un'erogazione liberale che viene fatta alle scuole, quindi in questo caso si traduce in un meccanismo di un credito d'imposta. Possono farlo anche le persone fisiche? Sì, assolutamente. Attenzione un po' all'incrocio di incompatibilità con le detrazioni per l'iscrizione dei figli a scuola, però insomma l'ultima circolare sul 730 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è una incompatibilità non assoluta ma relativa, cioè nel senso che si può fruire di uno sconto per un figlio e di un altro sconto per un altro figlio. Ecco, quindi bisogna fare attenzione a questo. C'è anche il credito d'imposta per la sicurezza e la videosorveglianza, che è una sorta di agevolazione, una tantum, che è stata concessa per l'anno d'imposta 2016, che ha appena comunicato l'Agenzia delle Entrate, che potrà essere fruita per l'intero valore delle spese effettuate, quindi insomma va utilizzata all'interno della dichiarazione dei redditi 2017. Su Twitter Rossana ci specifica, non sono stata io sufficientemente precisa, ma in realtà lo avevo scritto, Rossana, non l'ho solo detto, non sono solo le farmacie ad inviare in modo automatico gli scontrini, i dati delle spese per farmaci, appunto l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti che hanno sostenuto queste spese, ma anche le parafarmacie, le parafarmacie. Diamola questa informazione, chiede Rossana con forza, e noi la diamo. Velocemente Claudio da Brescia, buongiorno, ma deve essere proprio telegrafico, grazie. Buongiorno, allora la domanda è questa. Io l'anno scorso ho installato un condizionatore d'aria, sì. Mi hanno fatto la fattura, ho pagato col bonifico, bravo, tutto a posto, però la spesa non è inserita nella precompilata. Come mai? Chissà. Mentre la trovo nel dettaglio delle spese con la scritta esiste un bonifico che corrisponde di numero, eccetera, eccetera, ma non è stata inserita in precompilata. Deve farlo lei, Claudio. Grazie, Luca De Stefani. Sì, è corretto, perché nella precompilata troviamo solamente le spese che erano state inserite negli anni precedenti, quindi fino al 2015 indietro, relativamente alla detrazione appunto per la casa. Tutti i pagamenti effettuati nel 2016 sono in questo foglio informativo e vanno confermati da parte dei contribuenti. Entro quanto, ricordiamolo? Entro la scadenza classica è il 7 di luglio, però per chi si presenta tutto tramite un CAF, chi invece presenta direttamente il 70 precompilato è il 23 di 24 quest'anno, perché di luglio. È di domenica di luglio, e quindi l'invio ha fatto entro il 24 di luglio. Certo. Ricordiamo che anche i CAF possono utilizzare questa scadenza qui se hanno presentato entro il 7 di luglio almeno l'80% di 730 a loro. Benissimo. E tra l'altro adesso i contribuenti possono fare solo un controllo, ma non possono ancora intervenire sulla dichiarazione precompilata, perché potranno farlo solo a partire da martedì 2 maggio, come dice il Sole, giorno da cui saranno operative le funzioni di accettazione, modifica o integrazione di 730 e modello redditi. Grazie a Luca De Stefani e a Giovanni Parente per essere stati con noi. Ci torneremo magari con un'altra puntata quando sarà necessario, per rifare un punto della situazione se emergeranno molte difficoltà, ma non ci sembra, per i contribuenti italiani che aderiscono all'opzione precompilata. Cuore Denari anche oggi termina qui. Grazie a Carmelo Lauricella, Laura Vanossi e Marco Lombardo. Naturalmente domani ritorna il team al completo. No, non è vero, perché domani non ci sono io, c'è solo Nicoletta, per cui anche oggi informazione fuorviante, ma torniamo tutti al completo venerdì. Buona giornata a tutti.